piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. È singolare che questa mattina io trasmetta da casa mia. È la prima volta che mi accade in quasi 40 anni di radio. Se volete la verifica basta guardate sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito di Radio 24, invece che il solito studio dove siete abituati a vedermi da oltre un decennio, vedrete la libreria di casa mia, i miei ricordi, la bambola assassina alle mie spalle, i miei libri. Insomma, io non mi posso muovere da questa stanza. Perché? Perché l'altro giorno ero a Milano e per un decreto della Regione Lazio chi è stato a Milano deve starsene 14 giorni a casa. Sono già passati 4 giorni, quindi per una decina di giorni io penso che trasmetterò da casa mia. Ma non cambia nulla assolutamente, vi ho davanti, vi vedo, vedo soprattutto l'agguerrito gruppo Telegram Melog ha parlato, ai quali ho pregato questa mattina di starmi vicino perché sono lo zoccolo duro dei miei ascoltatori. E cosa posso fare da casa? Beh, innanzitutto posso trasferire quella che è la mia esperienza su quelli che mi ascoltano e si trovano nelle stesse condizioni. Vi rendete conto che non è più un gioco, ma non tanto perché le informazioni che danno in maniera così puntuale i miei colleghi ci impongono sempre più di seguire quelle che sono le linee, le direttive per la sicurezza, per l'attenzione, per noi e per gli altri, ma perché tante delle nostre funzioni quotidiane stanno cambiando. A me non è mai accaduto di stare a casa a quest'ora. Non è mai accaduto di avere Tommy, Filippo nella stanza accanto che fanno le cose loro perché Tommy non va a scuola, perché Filippo non può andare all'università. Non mi è mai accaduto di pensare che se esco di casa non posso nemmeno andare a fare la spesa o potrò, non lo so, non capirò cosa ho nel freezer, cosa faccio. Beh, io invece di abbattermi, buttarmi giù, faccio un po' quello che facevano i giovani ai tempi della peste di Firenze che ha raccontato Boccaccio. Rifletto, penso su come stanno cambiando i punti di vista. Guardate che la vera rivoluzione è che gli italiani stanno cambiando i loro punti di vista. Una rivoluzione così potente, così radicale, non c'è mai stata nel nostro paese dal 1945. Non è stato nulla in confronto l'austerity, gli anni di piombo, l'attacco a Baghdad annunciato da Emilio Fede che tutti andavano nei supermercati. No, oggi è qualcosa di radicale. Oggi non si vedono più gli altri fare cose che potrebbero in qualche maniera inquietarci. Oggi siamo noi ad essere inquietati. Oggi siamo noi che in questo momento non ci rendiamo conto che il mondo sta cambiando. E se cambia il mondo cambiano anche i nostri pregiudizi, i nostri punti fermi, le nostre abitudini. E giorno per giorno, per tutta la durata di questo Melog dalla quarantena, io cercherò con voi di mettere a punto come sono cambiate le nostre abitudini, come stiamo sovrascrivendo i nostri pregiudizi. I pregiudizi molte volte li giudico gloriosi, non sempre sono qualcosa di negativo, ma molti pregiudizi dei quali magari dovevamo vergognarci o sui quali avevamo reticenza nel parlare stanno profondamente cambiando. E oggi voglio porvi la prima domanda. Vi rendete conto che è cambiata totalmente la concezione della polarità? Il nord non è più nord e il sud non è più sud. In questo momento il nord è il luogo della sofferenza, è il luogo dell'emarginazione, è il luogo da cui tutti scappano, e il sud invece paradossalmente deve cominciarsi a guardare da quelli che sono gli immigrati del nord. Vi leggo soltanto un messaggio che mi hanno mandato questa mattina via WhatsApp. Sono attrezzatissimo a casa mia, devo dire non sono mai stato così comodo. Scrive una ragazza dalla Sardegna, che naturalmente dal punto di vista proprio della latitudine non è essenzialmente il sud, ma è considerato comunque un posto in cui magari la gran parte degli italiani vanno solo in vacanza. Scrive: mi rivolgo a tutte le persone dalle zone rosse di tutta Italia, stanno venendo in Sardegna nelle loro residenze estive. Evidentemente c'è una transumanza di italiani verso le case al mare. Li avrei messi su un barcone a fare la quarantena in mezzo al mare. Siete gli stessi che hanno discriminato i migranti che scappano dignitosamente da una guerra. State infrangendo le leggi italiane, state venendo in una regione dove la sanità ha molti meno mezzi che nelle vostre regioni. Occuperete i pochi posti negli ospedali perché vi ammalerete prima di noi. Io reputo un gesto di grande egoismo, di profonda ignoranza. Questo è un messaggio, me ne arriveranno altri, e comincio oggi questa puntata di Melog Quarantena facendovi ascoltare la voce di un fumettista pugliese che vive a Milano, Frecht, penso si pronunci così. Tempo fa l'avevamo mandato perché aveva fatto un monologo divertente, che è diventato virale, sui meridionali che vivono a Milano e si lamentano sempre e rimpiangono il sud. Chissà oggi come la pensa lui su questa vicenda. Sono un terrone, un orgoglioso e fiero terrone che vive a Milano. Anche i miei sono terroni. E ho vissuto in Puglia fino ai miei 19 anni. Poi sono salito qui a Milano, ho studiato, mi sono laureato e sono rimasto. Fine della premessa. Ma c'è sta una cosa che mi stai proprio su cazzo. Il comportamento di certi meridionali a Milano. Non tutti, alcuni. Molti vengono a Milano per studiare, per fare da gà, per sfogare le loro velleità artistiche. E cosa chiede in cambio Milano? Niente. Cosa fa invece il meridionale una volta arrivato a Milano? Si lamenta. Si lamenta perché giù da lui si mangia meglio, si lamenta perché manca il mare. E u sol, do ste u sol? Sarà per questo motivo che i milanesi sono così freddi? Perché manca u sol? Siete dei cazzo di maleducati. Oggi probabilmente il suo punto di vista è cambiato. Chi avrebbe immaginato soltanto un mese fa, quando mandammo questo divertente sketch che era diventato virale, che prendeva un po' in giro quel senso di nostalgia del meridionale per la sua terra. Buongiorno Frecht, Francesco. Buongiorno, grazie per avermi invitato di nuovo. Oggi è, diciamo, paradigmatico, esemplare quello che è il tuo punto di vista. Tu meridionale, che vivevi a Milano, ti stai conquistando l'autonomia, il prestigio professionale, nel flusso tradizionale dell'immigrazione, prendevi in giro un po' i tuoi conterranei, che dicevi sì, state qui, poi vivete per il pacco da giù, poi giù tutto è bello, tutto è carino, tutto è come deve essere, e sputate sul piatto dove mangiate. Oggi in che condizione ti poni? Tu sei innanzitutto un meridionale che vorrebbe tornare a casa e non ci può tornare. Beh, in realtà no, in realtà sono qui e sto bene, ma più che altro vedo, cioè vorrei tornare a casa perché comunque casa è sempre casa, però resto qua perché secondo me quelli che sono scesi sono tutti vittime di quello che chiamo io, se mi può passare il termine appena inventato, egoismo della statistica, cioè quell'egoismo che ti fa dire ma sì, io scendo perché tanto sicuramente io non l'ho preso, sicuramente io sono tranquillo, perché io vorrei scendere, ma per esempio c'è mio padre che non sta bene. Ok, e quindi il ragionamento che ho fatto è, e metti che ce l'ho io l'attacco, visto che uno dei soggetti a rischio potrebbe essere mio padre, e quindi ragionando in questa maniera sono uscito da questo concetto che ho appena spiegato dell'egoismo, della statistica. E è, un po' quello che, è un po' quello che diceva la ragazza che mi ha mandato il messaggio su WhatsApp, dice ma come venite in Sardegna adesso, proprio in questo momento, noi abbiamo già una sanità che naturalmente può se no occuparsi di noi sardi, e venite a portarci il coronavirus così come se niente fosse, infrangendo la legge, perché io oggi perché sto a casa? Perché non voglio andare a mettere a rischio i miei colleghi della redazione di Roma. È uscito un decreto che chi è stato a Milano deve starsene a casa, e sono stato a Milano, è logico, è palese, l'ho sbandierato i 420 come faccio per ogni cosa che faccio nella vita, e quindi me ne sto a casa mia, mi sono organizzato. Il problema secondo me non è il fatto che però c'è malafede in quello che si fa, cioè io lo chiamo l'egoismo della statistica, perché secondo me non è il concetto di chi se ne frega delle regole scendo giù, è il ma sì, ma figurati se io per caso ho contratto il virus, ma va. E quindi questa mancanza di senso civico che adesso finalmente mostra i suoi limiti. Come dicevo io nel video, alla fine ecco perché la gente se la prende con Milano. Milano non ha colpe, è la mancanza di senso civico che ci fa puntare il dito sugli obiettivi sbagliati, sui colpevoli sbagliati. E credo che quello che sta succedendo adesso confermi le mie teorie. Solo questo. Beh, adesso ci sarà il paradosso che i milanesi parleranno con accenti meridionali improbabili, un po' l'opposto di quello faceva a Batantono al tempo di eccezionale veramente, si fingeranno tutti pugliesi, napoletani, calabresi, per non essere identificati, perché il milanese, il torinese, il ligure che in questo momento cammina sulle spiagge della Calabria fuori stagione viene subito individuato, dice che sei venuto a far qua, a portarci il coronavirus. È bella questa cosa, bella, è triste questa cosa che alla fine non ci smentiamo mai, questa transumanza al contrario mi fa proprio riflettere sui punti di vista che cambiano. A questo punto chi più avrà il coraggio di dire c'hai delle abitudini da terrone, ti comporti in maniera diversa rispetto a quello che è il livello di civiltà, di elaborazione della socialità della persona che sta al nord? Insomma, cambia tutto al punto tale che un altro personaggio, che anche noi l'avevamo sentito qualche volta, che è stato molto discusso perché anche lui era il rappresentante del nemico pubblico numero uno, dell'inquinatore numero uno, dell'attentatore numero uno alla nostra compattezza, alla nostra stirpe, alla virtù delle nostre donne. Beh, costui era bello figo, che naturalmente anche lui parla del coronavirus. Tutti sanno che ho paura. Tutti sanno che ho paura di coro. Coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Tutti sanno che ho paura di coro. Coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Un sacco di gente in Cina sono stati contagiati, sono stati contagiati, sono stati contagiati, yeah. Sono stati contagiati, yeah. Ho paura. 800240024, naturalmente la linea telefonica funziona, potete chiamarmi, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco da casa mia. Log 800240024, riprendiamo il nostro Melog che naturalmente oggi, come ho già annunciato, è nella sua edizione speciale. Il gruppo su Telegram già ha cambiato la sua denominazione, Quarantena Edition. Questo è Melog Quarantena Edition. Io mi dovrò stare almeno una decina di giorni a casa e da casa trasmetto tranquillamente. Potete vederlo dalla pagina di Radio 24, potete chiamare all'800240024, ci sono io con Chucky alle mie spalle che mi fa compagnia. Chucky è la bambola assassina. Abbiamo detto che si può chiamare, quindi abbiamo al telefono Iorio. Iorio, buongiorno. Buongiorno, signor Giannini. Io ho sentito la sua trasmissione prima. Sono a casa mia, sono in quarantena, mica. Ah, pronto? Sì, l'ascolto. Ok, allora. No, io sono Giannino, Giannini o Nicoletti, smetta l'accordo, Giannini. Uno dei tre. Chi sceglie, Giannini. Chi vuole? Io ho sentito... No, no, posso fare anche Giannini se vuole. È un po' più banale come parlato. No, chi vuole lei? Volevo chi scelga. Okay, chi preferisce avere? Va bene, Giannino? Uno che c'è lì che mi sente. Sì, va bene. Giannino, eccomi, mi dica, amico, sono qua. Allora, io l'ascoltavo la trasmissione, lì c'è stato uno che ha detto che il mondo sta cambiando, che qui sta cambiando tutto, le abitudini... Sì, Nicoletti, quel coglione, certo. Allora, io volevo dire solo questo, che non è il mondo che sta cambiando, sono le persone che ci hanno inviato questo virus qui, ci sono persone molto più cattive al mondo di quelle che vanno a lavorare tutti i giorni e avanti e indietro. E chi sarebbero queste persone cattive? Sì, per me questo virus qui ce l'hanno inviato, gratuito, gratis. Ma chi, anche lei ce l'ha con gli alieni come l'altra volta il signore della telefonata? Io non ce l'ho con gli alieni, per l'amor del cielo, e non ce l'ho con nessuno. Andiamo su Marte, andiamo a conquistare la Luna e avanti e indietro, che ne abbiamo abbastanza qui di questo mondo da mantenere. Io dico che questo virus qui non fa cambiare le abitudini, dobbiamo solo fare un po' di attenzione e basta. Però questo qui... Beh, oddio, non fa cambiare le abitudini. Le mie le ho cambiate notevolmente, ma penso per molte persone stanno cambiando le abitudini, cioè avere i ragazzi a casa per una decina di giorni, 15 giorni in questo periodo non fa proprio, fa un po' la differenza. Posti di lavoro, stanno dicendo ai dipendenti andatevene a casa, cioè l'Italia scopre improvvisamente che molte cose possono essere fatte da casa, le strade sono abbastanza deserte, le città sono desolate, camminare a Roma sabato e domenica sembrava di camminare il giorno di Ferragosto. Lei dove vive, in che mondo vive per dire che non stanno cambiando le abitudini? No, guardi, ho un'azienda, perciò posso dire che il lavoro si è fermato, ecco, ma dove ce l'ha l'azienda? Io sono qui a Modena, a Rovereto. Niente, ma no, è quello che. Quindi lei sta in una zona, diciamo, tra quelle che devono tenere delle attenzioni particolari. Sì, io non mi posso muovere. Però a me. Non sono cambiate le sue abitudini, scusi. Lei non si può muovere, mi sembra che qualcosa sia già diverso, no? No, io guardi, io la vivo come prima la vita. Ecco, non mi è cambiato niente. Vado fuori, vado al bar, faccio questo, fa una cazzata, tutti stanno dicendo in questo momento stanno dicendo se è possibile evitare di andare in luoghi frequentati da persone, e lei fa le stesse cose che ha fatto sempre. No, un attimo, visto che dobbiamo stare a un metro come tutti, sto a un metro anche io, perché al bar mi dicono stai a un metro e sto rimango a un metro. Ecco, non le sembra che già cambi qualcosa sul fatto che bisogna stare a un metro dalle persone? Vabbè, a questo cosa lo devo fare, però quello che volevo dire io è che questo virus qui ce l'hanno regalato, perché ce l'hanno mandato in giro e noi siamo a posto. Guardi, non mi dica, no, io non sono un indovino, non sono un professore. Non me lo faccia dire. Iorio, benissimo, è una bella mattinata, da gusto fare due chiacchiere al bar, però anche se trasmetto da casa il tempo è quello che è e devo usarlo in maniera proficua. Ricordo il telefono 800 24 00 24, questo è il Melog Quarantena Edition, e abbiamo al telefono Enrica Sinesio. Enrica Sinesio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Allora, Enrica fa la giornalista, è di Catania, lavora a Milano, parte cospicua dei suoi affetti ce l'ha a Catania. Cosa fai questa mattina? Confermo. Allora, in realtà l'istinto domenica sera, in attesa dell'ufficialità del decreto di fare le valigie e partire, è stata forte per un attimo, però è bastato razionalizzare, diciamo, per rendersi conto che c'erano almeno due buoni motivi per non partire. Il primo, banalmente dettato, cioè tu eri tentata, come ha detto ieri alla D'Urso Candida Morvillo in una trasmissione strappacuore, avevo già fatto la mia valigia, e subito tutti a pensare cosa mette nella sua valigia Candida Morvillo, poi mi sono detta devo rimanere, è rimasta. Gianluca, ti ringrazio, il paragone mi lusinga, devo dire, sia per la citazione della trasmissione che di Candida Morvillo, però in realtà diciamo che l'istinto di ricongiungersi, o comunque di dire l'idea di stare almeno 15 giorni a casa per casa, almeno vado giù dai miei. Quello è stato il pensiero, un attimo. Così c'avevi chi ti cucinava, chi ti faceva il letto, ti lavava, che ti coccolava. Quello comunque non è un aspetto da trascurare, tornare figlia per un po' non fa mai male. Ma al di là di quello... Cosa ti ha trattenuto però, Rica? Cos'è che ti ha trattenuto che hai detto rimango qui a Milano? Allora, anzitutto delle banalissime esigenze lavorative, perché non tutte le aziende, o almeno non da subito, hanno concesso, mettiamola così, lo smart working. Ma prima di tutto... Sì, poi lo smart working non è detto di andare a Catania a farlo, lo puoi fare anche da casa tua. Sì, tra l'altro. Non c'è scritto smart working da giù, smart working da dove lavori, da dove vivi. Sì, esatto, però non tutte le aziende, almeno non da subito, hanno detto facciamo smart working, quindi c'era comunque pendente... possibilità di lavorare, di dovermi recare fisicamente al lavoro. Ma prima di tutto diciamo che ho fatto appello al mio senso di responsabilità e ho detto non trasformiamoci negli untori 2.0, e ho fatto appello appunto al senso di responsabilità, ho detto non scappiamo da una situazione che evidentemente ci sta rivelando una situazione di emergenza, ma semmai affrontiamola con le dovute precauzioni e anche con i dovuti sacrifici, perché è normale che la situazione in questo momento è eccezionale e surreale, basta affacciarsi. Ecco, allora dimmi te, tu avrai un giro di frequentazioni, conoscenze, amicizie in cui naturalmente è presente questa realtà di persone che vivono una realtà che è diversa da loro, si stanno conquistando l'autonomia, il diritto a lavorare, fare qualcosa che non avrebbero avuto magari come opportunità nella loro città, nel loro paese. La comunità di te e i tuoi colleghi, i tuoi amici, le persone che comunque vengono da giù, che tanto il tema è questo, è come in questo momento l'Italia si è invertita, lo stivale è sotto sopra, si inforca al sud e il tacco sta al nord. Ecco, cosa vi dite? Ma allora, non siamo diventati un ghetto, c'è da dire comunque che sicuramente c'è una grossissima percentuale di persone che, diciamo, frutto della transumanza dal sud al nord, siamo in tanti meridionali a essere qui in questo momento. Non essendo una persona particolarmente mondana, non soffro la mancanza dell'aperitivo del dopolavoro, però sicuramente, diciamo, che le abitudini si stanno modificando, soprattutto da questa settimana, perché le due precedenti, per quanto mi riguarda almeno, ho continuato ad andare normalmente a lavoro, così come la maggior parte dei miei colleghi. Ferma un attimo, Enrica, solo un secondo, ferma. Enrica, un secondo solo, sì. Resta un attimo in attesa perché Maria Rosa, che ci chiama da un paesino in provincia di Pordenone. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei sapere una cosa: si sente dire in tutta Italia, insomma, che c'è questa emergenza, bisogna stare distanti, bisogna osservare delle regole, no? E io sì, cerco di osservare delle regole, cioè vado al supermercato appena apre, che c'è poca gente, cerco di osservare le regole che dicono. Però girando al mio paese, allora, il bar pieno, il ristorante pieno, tutti, cioè come se non esistesse il coronavirus, salvo qualche persona. E quando io dico qualcosa, vedo qualcuno, gli dico sì, stiamo un po' distanti, come se quasi si offendono. Non si offendono, ma diciamo che non mi vediamo proprio come, cioè, come ci si deve comportare, com'è questo comportamento? Io non riesco a capire. Allora, Maria Rosa, lei mi sta segnalando quello che è un atteggiamento molto diffuso, è la presunzione di immortalità o di intangibilità o di assoluta impossibilità che possa toccare a noi. Questo accade sempre, accade nelle pestilenze, accade nelle guerre, accade nelle situazioni più tragiche, accadeva probabilmente anche in periodi in cui poi venivano sotto casa a prenderti e a portarti via. Dici, ma non toccherà a me, è impossibile che accada a noi, e poi è accaduto. Siccome tutto può accadere a chiunque, io spero che il flusso di notizie, che è poderoso, che è potente e sta cominciando a uscire da quella zona di incertezza, di approssimazione dei primi tempi, induca le persone a comportarsi in maniera corretta. Ripeto, io non mi voglio fare esempio di nulla assolutamente, ma se è possibile fare una diretta radiofonica da casa, è possibile anche andare a un bar e stare a distanza, una volta tanto evitare le pacche sulle spalle e tante altre cose che tanto ci danno soddisfazione, ma di questo ne parleremo in altre puntate, e ci fermiamo un istante. Melog. Siamo al Melog Quarantena Edition, come ormai hanno battezzato questa trasmissione gli ascoltatori del gruppo di Telegram che mi segue in maniera più massiccia, sono più di 1000 in questo momento e quindi mi fa piacere. Stiamo analizzando come cambiano le nostre abitudini, come cambiano i punti di vista, come dobbiamo sovrascrivere i nostri pregiudizi. Guardate che questa vicenda che sicuramente ricorderemo, racconteremo ai figli. Io vengo dalla generazione che è stata massacrata da genitori con la guerra, i bombardamenti, la borsa nera, non c'era il pane, non si mangiava, si stava male, c'era paura, c'era freddo, c'era fame, e dovevamo sentirci e vergognarci di stare troppo bene, di essere troppo sani, di averci troppe fettine, troppi formaggini a disposizione, perché ci hanno rovinato la fanciullezza con lo spettro della guerra. Ecco, probabilmente anche la generazione di Bimbo Minchia, che in questo momento pensava che la festa potesse continuare in eterno, la festa che abbiamo vissuto, insomma, dal dopoguerra in poi, non ci possiamo lamentare. Sì, abbiamo avuto dei momenti oscuri e difficili, ma volete mettere, nessuno ci è venuto a prendere a casa per ammazzarci. Nessun vicino di casa ci ha aperto la porta e ci ha scannato i figli, nessuno ci ha tirato le bombe sulla testa. Oggi dobbiamo cominciare a pensare che tutto quello che ci sembrava indiscutibile può essere messo un po' in discussione, e lo facciamo stando attenti a seguire le regole di sicurezza per questo virus, che comunque è qualcosa su cui non bisogna scherzare, e lo facciamo riflettendo, se possibile tirando fuori qualche lezione di vita da quello che sta accadendo, ridiscutendo, rimettendo in discussione quello che per noi ormai era una certezza. 800 24 00 24, Melog Quarantena Edition. Domenico da Milano, buongiorno. Sì, buona giornata, buongiorno. Solo un paio di considerazioni in relazione al rovesciamento dell'Italia a cui faceva riferimento. Allora, la prima è questa strano, come la chiamata lei, transumanza, che ha il sapore quasi di uno spostamento di Lemming, cioè tutti se ne sono andati da un sistema sanitario collaudato e nella speranza di non trovarsi contagiati vanno in zone dalle quali solitamente dal punto di vista sanitario si scappa. La seconda, questo dimostra, però vedi, Domenico, dimostra l'irrazionalità di questo comportamento. Vanno giù perché pensano lì ci sono le spiagge, c'è o mare, c'è o sole, ci mettiamo lì, non facciamo niente, come se fosse una vacanza. Tutti partono pensando che adesso, perché si lavora da casa, si sta in vacanza. Secondo me bisogna lavorare il doppio, proprio perché si lavora da casa bisogna pensare il doppio, bisogna organizzarsi il doppio. Non è che adesso viviamo in un momento di sospensione dalla realtà. La realtà che in questo momento stiamo gestendo è una realtà che ci può azzannare, è qualcosa che dobbiamo comunque tenere a distanza. Io non mi cullerei sul fatto quanto è bello stare a casa, quanto è bello vedere i telefilm, che bello tutti assieme con i ragazzi a casa. Mi dicono, si sentono rumori, cerca di stare più fermo. Ragazzi, sto in una casa normale, dove c'è una sedia normale, un tavolo normale, si sentono i rumori perché sto a casa mia. Ci sarà pure una differenza fra stare in uno studio perfettamente insonorizzato, pensato da ingegneri, e stare in maniera del tutto improvvisa nella triste cameretta dove si consumano i propri momenti di solitudine. Allora, Domenico, termini la sua telefonata. Quindi il suo punto di vista qual è? Il mio punto di vista era che anche la seconda assunzione, per cui parlando da trasfertista, perché non sono di Milano di origine, è quella sulle regole, nel senso il discorso che faceva lei, cioè tutte queste persone che sono scappate da Milano alla fine sono persone che purtroppo o geograficamente o come mentalità non hanno ancora acquisito il rispetto delle regole, e secondo me questo evento ci maturerà e ci porterà a rispettare maggiormente le regole, a dar valore. E Domenico, vede, però lei ha ragione, tocca quello che mi sta galleggiando in testa da questa mattina, il rispetto alle regole. La signora che dice che a Pordenone, da cui probabilmente per pregiudizio di latitudine pensavamo che tutti fossero perfettamente ligi alle regole, cioè nessuno sta alle regole. Mi stanno scrivendo adesso sul canale Melog Quarantena Edition che ci sono dei luoghi al nord dove stanno facendo i mercatini. Il mercatino è quanto di più deleterio c'è, calca, persone, gente che va, gente che viene. Ecco, su questo presunto rispettare le regole, che è determinato da una sorta di linea di demarcazione, da un punto di vista in su ci sono quelli bravi che rispettano le regole e da un punto di vista in giù ci sono i lazzaroni. Ecco, questo secondo me ce lo stiamo rivedendo. Grazie Domenico. Massimiliano Carrà. Massimiliano Carrà, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Massimiliano Carrà, anche lui è un giornalista, l'abbiamo chiamato lui e Enrica perché questa mattina stiamo raccattando intanto le persone che in qualche maniera conosciamo, riconosciamo le abitudini, sia Enrico che Massimiliano. Enrica che Massimiliano sono stati, voi siete stati miei allievi al master di Radio 24, vero? Assolutamente. Beh, ecco, proviamo stati ogni modo per rincontrarci, almeno per ascoltarci, sì. Anzi. Pensa che bello, adesso sono a Roma per essere stato a Milano e tu sei a Milano perché non puoi tornare a casa tua. Allora, anche tu, siciliano che vive a Milano, come vivi questa situazione, soprattutto il tuo punto di vista sulla transumanza al contrario, sugli immigrati insospettabili spinti dal coronavirus, sulle regole che sembravano intangibili a una certa latitudine che in realtà sono messe in discussione facilmente? Ma assolutamente, io quanta ho deciso da, con molta tranquillità di rimanere a Milano, perché è un momento totalmente sbagliato per poter pensare minimamente di poter tornare indietro e scendere giù in questo momento, cioè, ma anche per un semplice motivo, per voler bene ai propri cari, cioè, bisogna ricordarsi che in casa ci sono persone più anziane di noi, più anziane di me, che ho 25 anni, che ora come ora, da quanto si vede dagli studi, non hanno mai, non sono mai un caso di coronavirus per un 25enne. Pensare a gente di 70 anni, 80 anni, a scendere giù e diventare, diciamo così, il coleroso della situazione, non credo che sia la migliore delle idee. Anche perché si sta stabilendo un principio abbastanza difficile da elaborare, da tollerare. Se non si tengono comportamenti corretti, aumenteranno il numero delle persone infettate. Se aumentano il numero delle persone infettate, aumenterà anche il numero delle persone che avranno comunque bisogno di una particolare terapia per poter loro salvare la vita. E ci troverà di fronte a un dilemma, che è un dilemma atroce, e questo potrebbe accadere, se già non sta accadendo, di scegliere: in questo respiratore chi ci metto? Ci metto la persona di 40 anni o una persona di 60 anni? E devo dire che a questo proposito cominciamo a riflettere, noi che ci sentiamo giovanissimi. Noi pensavamo di vivere un'epoca fantastica. Io a 65 anni mi sento un ragazzino, mi sento una persona che può avere tutto ancora dalla vita. Però oggi mi rendo conto che in realtà, di fronte all'unico respiratore rimasto, se dovessero scegliere fra me e fra un ragazzo di 20 anni, è chiaro che sceglieranno un ragazzo di 20 anni. Quindi dovranno sicuramente raddoppiare anche le mie attenzioni e le attenzioni delle persone che possono mettere a rischio anche la vita di persone della nostra generazione. Firmiamo questo quarantena virus, è inutile che mi chiamate al telefono, ci sentiamo domani.